Storielle. Storiacce. Di Roberta Giordano. Non ditemi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, che non avete mai pensato in tutta la vostra esistenza: ecco, adesso basta, mollo tutto, mollo il lavoro, mi ritiro da qualche parte, faccio una vita diversa, senza questi obblighi, questi schemi, questi codici, queste abitudini, insomma, no? Il classico sogno, l'utopia di andarsene sull'isola deserta, magari aprire un baretto, insomma, fare una vita, un'esistenza diversa da quella che ci incastra tutti i giorni per una vita intera. Bene, oggi, perché faccio questa introduzione? Perché in realtà oggi non ci sarà qui a Storielle il classico personaggio famoso, insomma, che basta il nome e tutti, ma un personaggio che ha una storia comunque molto particolare da raccontare e che forse, proprio in virtù di questa cosa che vi dicevo all'inizio, può dire di esserci riuscito, insomma, a dare questa svolta. Poi ci racconterà come, non è proprio una cosa semplicissima, però può essere davvero interessante avere questo punto di vista, questa prospettiva, la testimonianza di chi una cosa così l'ha vissuta veramente. Magari per dire noi stessi, ma perché non provarci? Intanto, come sempre, qui a Storielle, tre aggettivi per cominciare a presentarsi. Beh, allora ne diciamo due che considero positivi, ho fatto di opinioni, e uno un po' meno positivo per evitare di farsi l'autocelebrazione. Io insomma, sono in libertà. Uno, credo, molto concreto. Sì. E questo credo sia una cosa molto importante nella mia vita, anche nel discorso che stiamo per fare. Certo, bisogna tenere i piedi per terra comunque. E di contro sono un grande sognatore. Credo che poi alla fine il mix di queste due cose sia l'inizio e la fine di quello di cui stiamo parlando e della mia vita in questo momento. Fanno i contrappesi giusti. Beh, e il terzo, sentiamo questa terzo negatività. Rischio di essere, soprattutto ultimamente, tendenzialmente un insofferente. Se mi dici ultimamente mi preoccupo comunque. No, mi spazientisco un po' quando, e questo un po' è un difetto, anzi decisamente un difetto, perché bisogna essere più pazienti con le persone, immaginandone i limiti eccetera, però ci sono una serie di cose che sento ripetere spesso, troppo spesso, e che mi spazientiscono, perché penso che bisogna smettere un po' di lamentarsi e di fare, di agire, quindi questo poi a talvolta diventa un eccesso. Ah, quindi non insofferente rispetto, diciamo, alla nuova vita che hai, perché sennò dico, caspita, ah, no, dopo che ci sei riuscito, no, ah ecco. Al contrario, no. Vorrei che, come dire, questa vita mi rendesse anche migliore nei miei difetti, a volte accade, a volte no, però insomma, quindi l'insofferenza un po' c'è ancora. E questi sono i tre aggettivi con cui si definisce Simone Perotti. Simone Perotti ha una storia professionale di tutto rispetto, è stato un consulente, poi fino ad arrivare a general manager di diverse agenzie di livello internazionale di comunicazione, no Simone? Hai vissuto 20 anni, diciamo, da grande professionista, insomma, nel tuo settore, quello della comunicazione, delle relazioni esterne, hai lavorato anche, credo, in modo vicino al Parlamento, no? Nei fatti di cose in vita tua? Sì, ho fatto un po' tutto il cerchio delle attività che sono intorno all'attività, diciamo, di comunicazione in senso lato, quindi dal marketing alla pubblicità, alla lobbying, all'ufficio stampa, alle relazioni esterne, eccetera. Adesso in questi giorni si sta un po' favoleggiando sul fatto che io sono stato un grande manager, perché la comunicazione, come sempre, prende un po' la mano. Informazioni. No, no, dillo tu, quindi. Molto simile a quella di tantissimi manager, tantissime persone che lavorano in un'azienda. Sono diventato un dirigente d'azienda abbastanza giovane, nel mio piccolo, senz'altro una storia di successo, diciamo così, ma certamente non paragonabile a quella dei grandi successi manageriali. Però a un certo punto Simone Perotti ha detto: adesso basta. E questa frase così perentoria l'ha usata poi come titolo di questo libro che ha scritto, sottotitolo, questo è l'essenziale, lasciare il lavoro e cambiare vita. Proprio dicevo, il sogno di tanti. Filosofia e strategia di chi ce l'ha fatta, edito da Chiare Lettere. Quindi Simone, tu a un certo punto, verso i 30 anni naturalmente, eri contento di quello che avevi conquistato, eri un po', diciamo, in linea con quelle che sono le aspettative, no? Di quella che oggi è la generazione, per esempio, dei quarantenni, però poi ci spiegherai come a un certo punto, come dicevamo, hai deciso di dare una svolta alla tua vita. Intanto abbiamo detto alle ascoltatrici e ascoltatori qual è il succo della faccenda, ma è interessante scoprire poi come si dipana, no? Tu sei nato a Frascati, sei del 1965, Frascati vicino Roma, e i primi passi tuoi come sono iniziati? Ma sì, io sono proprio il tipico esponente della generazione dei quarantenni, che a mio modo di vedere è una generazione abbastanza massacrata dalla storia, diciamo così. Io avevo una sorella che quando era adolescente o post-adolescente occupava i licei, viveva in pieno la temperie degli anni 70. Quindi più grande di te. Più grande di me, che quindi aveva avuto, come dire, la fortuna, a mio modo di vedere, di misurarsi, di crescere in un'epoca di grandi sogni, di grandi immaginazioni, anche cialtrone, anche sbagliate, anche eccessive, lasciamo stare il giudizio, diciamo, ma certamente un'epoca di grandissimo impegno, di grande passione anche, no? Passione e partecipazione, esatto, era un ragionamento sempre collettivo quello di quella generazione. Io sono, come tantissimi, direi tutti o quasi i miei coetanei, cresciuto invece nel riflusso, niente Isola di White, ormai piena di gente, niente ashram a Pune, niente comuni in Toscana, niente capelli lunghi, niente contestazione. Non che sei arrivato dopo. Ovviamente dei valori, però certamente la contestazione, che è un po' il simbolo dell'età adolescenziale, io non l'ho vissuta. Quando io sono cresciuto in una famiglia molto carina, della media borghesia, non ricca, ma certamente, come dire, fortunata dal punto di vista professionale, ho avuto tutte le possibilità, però diciamo che non c'era alternativa, bisognava studiare, massimo dei voti, laurearsi, massimo dei voti, possibilmente fare il master, farsi una posizione, crescere, fare carriera, diventare ricchi. Questo era lo schema degli anni 80. Io avevo 15 anni nel 1980. Gli yuppies, insomma, quelli forse sono venuti, esatto, leggermente prima. Comunque, insomma, tu ti sei poi laureato, sempre seguendo questo filo di aspettative, in letteratura contemporanea, no? Sì, quello è l'unico piccolo gesto di, tra virgolette, di autodeterminazione che hai avuto. Perché io volevo scrivere, cosa che poi ho fatto, e volevo fare il professore universitario, poi in realtà ho capito subito che non c'era trippa per gatti, quindi immediatamente master in relazioni pubbliche, advertising, marketing, eccetera, e quindi immediatamente infilarsi nel mondo del lavoro con la piccola frustrazione di dover immediatamente deviare la strada, però anche con la gioia di andare incontro a un mondo molto divertente, molto bello, molto impegnativo come quello della comunicazione, quindi ci mancherebbe Dio, sono stato anche in questo fortunato. Però certo, insomma, crescere in quell'epoca non era semplice, non si può diventare facilmente dei sognatori, degli uomini liberi, essendo nati negli anni 60. Storielle. Storiacce. Sempre Roberta Giordano con voi, ascoltatrici e ascoltatori, e quella di oggi è la storia inusuale, anche se in realtà sta diventando un fenomeno sociale, soprattutto all'estero, in particolare Australia, quella di Simone Perotti, che da manager di un certo livello, che ha lavorato per tanti anni nel mondo della comunicazione, ha deciso di dare una svolta alla sua vita. Ha pensato che aveva voglia di riprendersi il suo tempo, di riprendersi un po' di libertà. Infatti diciamo che tempo, libertà, cambiamento sono un po' le parole chiave di questa chiacchierata di oggi con Simone Perotti, e di lasciare il suo lavoro e fare delle scelte coraggiose, perché poi ci è riuscito, è felice, non pensiate insomma che ci voglia poco tempo e poca organizzazione e da un giorno all'altro, così Simone, no? Assolutamente, sul libro c'è la citazione molto bella, secondo me molto appropriata, di una frase di Bjorn Larson che dice: per seguire i propri sogni occorre una certa disciplina. Io credo che bisogna essere molto concreti, molto organizzati, molto caparbi. Io ci ho messo 10 anni, insomma, quindi un po' di tempo. Adesso basta, questo è il titolo del suo libro di Simone Perotti, dove spiega appunto come lasciare il lavoro e cambiare vita. Quindi eravamo arrivati circa ai tuoi 30 anni, quando Simone hai conquistato insomma il ruolo, la posizione, lo status che è diventato un imperativo negli ultimi anni, no? Sì, per quanto riguarda i giovani, quelli che oggi sono quarantenni perlomeno. Sì. È esattamente così, a un certo punto questo status, con tanti sacrifici, con tanto lavoro. Guadagnavi bene? Fare. Sì, negli ultimi 5-6 anni decisamente sì, però ho iniziato guadagnando 68.000 lire lorde al giorno quando mi chiamavano. Questo lo dico sempre perché quando uno sente che qualcuno ha fatto il manager, immagina chissà cosa. Insomma, Corrado Passera è una cosa, noi siamo un'altra cosa. Ecco, diciamo che la gavetta ce la siamo fatti un po' tutti. Però poi mi pare che sia stato una mattina intorno alle 7.35 nel traffico congestionato di Roma, come tutte le grandi città, come di Milano, che ti si è accesa una specie di lampadina, Simone. Sì, ho avuto la sensazione che quegli anni, come questi, non li avrei avuti per sempre. la prestanza fisica necessaria per potersi godere la vita in maniera, come dire, gioiosa, la freschezza del pensiero, anche il non essere appunto ancora invecchiati, anche nei sentimenti, nel disincanto. Erano una cosa che forse meritava un pochino più di rispetto, perché sono cose che hanno una grande dignità e soprattutto non tornano. Le cose che non tornano, come l'ambiente quando lo consumiamo, sono cose importanti, non si può scherzare. E allora forse bisognava mettersi un attimo al lavoro e darsi da fare. Era il momento in cui raggiungevo i primi risultati sul lavoro, quindi teoricamente avrei dovuto essere molto carico e spostare subito la motivato avanti, sì, darmi nuovi obiettivi, motivato. Invece la mia testa ha fatto click verso la libertà, forse mi ero provato quello che dovevo provarmi, cioè di non essere un imbecille, di poter fare anch'io le cose che facevano gli altri, e quindi forse bastava così in quella direzione. È vero, Simone, adesso poi spieghiamo come tu ci sei arrivato anche logisticamente a questo nuovo tipo di vita, che è un grosso fenomeno sociale che parte dall'estero. Mi pare che ci siano milioni di persone. C'è anche un termine inglese, downshifting, no? Che significa sì, scalare di marcia, rallentare il ritmo. E rallentare. In effetti è un fenomeno che non è più un fenomeno di nicchia ormai, e non è neanche un fenomeno di qualche fortunato benestante, è un fenomeno molto ampio che riguarda, e questo è molto interessante, quelli che dovrebbero stare in un certo senso meglio perché hanno un lavoro, e oggi la gente il lavoro lo cerca perché l'ha perso, hanno una stabilità, hanno un orizzonte davanti, però questo ce la dice lunga su qual è il risultato in termini di benessere che ha raggiunto il nostro sistema non produce tanto benessere, è inutile che ci giriamo intorno, produce sviluppo, produce la famosa crescita, ma il benessere è un'altra cosa, tant'è che chi dovrebbe averlo in realtà pensa di cambiare perché forse cambiando ne trova di più di benessere. In Italia sono centinaia di migliaia di persone ormai quelle che si avvicinano, pensano, stanno per, in Inghilterra sono 300.000 all'anno, nel mondo sono 16 milioni, questi sono i risultati di ricerche fatte da Data Media, insomma agenzie importanti di Londra, e sono un vero esercito. Nel libro ho provato a fare un elenco delle cose che non possiamo fare, proprio overall. Dinne almeno tre. Assoluto. Dinne almeno tre fuori dal libro. Vivere dove vorremmo, viviamo in un posto che se potessimo scegliere spesso non è quello dove staremmo. Sì. Frequentare per 9 ore al giorno, 10 ore al giorno, persone che se potessimo non sceglieremmo. Dormire o no la mattina, andare in vacanza nei momenti in cui il mondo è più bello, e cioè non quando ci vanno tutti, e poi non solo in quelle settimane, non pagando tutto il triplo, non avendo servizi peggiori, insomma, ma ci sono veramente 4 pagine di bullet sì, point, sì, che sembra l'elenco della spesa. Allora, vista così, la situazione non può generare tanta soddisfazione, e infatti il successo bruciante che ha avuto questo libro, che ha preso in contropiede anche un editore astuto e avveduto come Chiare Lettere, perché è andato esaurito in 4 giorni, già la ristampa dopo pochi giorni che è uscito, non è un caso. Allora, adesso però in termini molto pratici, Simone Perotti, spiegaci come sei arrivato, rispetto a quello che è il sogno di tanti, ma che rimane lì sospeso e frustrato sino alla fine dei nostri giorni, come per te invece è diventato realtà questo cambio di vita. Molto semplice lo schema, poi non è affatto semplice metterlo in pratica. Il punto più importante è quello di fare proprio un auto-check, una bella analisi di come stiamo. Io chi sono, che cosa sogno, che cosa mi piace fare, che cosa farei se non fossi solo libero da, ma fossi anche libero di, perché la libertà ha 2 facce, un conto è essere liberi da ciò che ci trattiene, un conto è essere liberi di fare, quindi che cosa? Bisogna avere una risposta a questa domanda, e deve essere una risposta vera, non le cose che ci dice la pubblicità, ma quello che veramente per te, che ti chiami Mario Rossi, è il benessere. Allora, capire questo è molto importante ed è assolutamente il primo passo. Tu intanto volevi scrivere e navigare, no? Io volevo scrivere e navigare, questo per me è un passaggio facile, perché io queste risposte ce l'avevo da sempre, erano cose che erano rimaste sempre nell'angolo e volevo tirarle su. Il secondo punto è immaginare come fare, per esempio, a risolvere il problema del sostentamento dopo aver lasciato, che non è il problema dei soldi in generale. Il problema dei soldi è diviso in 2, e questi sono gli altri 2 punti che volevo dire. Un conto è avere un pochino di soldi da parte per avere almeno qualche anno di tranquillità per poter vivere nel caso non si trovi alcun modo per guadagnare una lira soltanto. Perché quello è la preoccupazione. Di non dover tornare indietro, perché sennò è una Caporetto. E questo io ci ho messo 11 anni a mettermi da parte qualche soldo. Sono soldi con cui ho qualche anno eventualmente di copertura e quindi non bastano, ma almeno mi danno un pochino di tranquillità. E l'altro punto dei soldi molto importante è che non si spiega perché solo Francesco Totti debba guadagnare giocando a pallone. È chiaro che lui è un fuoriclasse e guadagnerà tantissimo. E fa quello che gli piace, quello è il massimo, no, che si possa raggiungere nella vita. E guadagna in quel modo. Allora, a me è piaciuto fare il mio lavoro, ci mancherebbe Dio, ma mi piace molto di più scrivere e navigare. Allora mi sono detto, perché non divento molto bravo a navigare, studiando, applicandomi tanto, e perché non faccio di tutto per diventare bravo a scrivere, in modo che domani, quando io sarò libero da, potrò essere magari anche libero di fare le due cose che amo. E non sono solo queste sono solo le mie. C'è gente che può vendere le cose che ricama, vendere i quadri che dipinge, può cucinare nei ristoranti 2 giorni a settimana, insomma può fare quello che gli piace fare, ma gli piace proprio tanto e proprio a lui, guadagnando qualcosa ed essendo realizzato e decidendo lui quanto tempo impiegare. Tra l'altro vorrei ricordare che Simone Perotti non è al suo primo libro con Adesso Basta, questo è stato proprio il successo editoriale, però tu hai scritto già negli anni passati Zenzero e Nuvole, L'altro uomo, L'estate del disincanto, quindi è un po' che scrivi. Io questa pubblico con Bompiani la parte narrativa, questo è il primo libro che non pubblico con Bompiani, sulla scrittura io ho veramente lavorato tanto, non è un hobby, non è una passione così da sabato e domenica, è proprio la mia vita, per questo anche ho fatto questa scelta, proprio per dare spazio. Non si può scrivere senza studiare, non si può scrivere senza viaggiare, senza avere tempo, e quindi io dovevo necessariamente prendere. Avere questo tempo benedetto, riprenderti il tuo tempo. Poi hai scelto questa casa tra La Spezia e le Cinque Terre in campagna, quindi in un posto dove forse la vita, le cose costano un pochino meno, anche se ormai... La Spezia è la città d'Italia dove la vita costa meno da un'indagine di pochi giorni fa. Dopo viene Pisa, sì. Io non lo sapevo, ma insomma... è stata la scelta proprio giusta. Sì, e sapevo che comunque era un posto dove potevo risparmiare del denaro, ma anche la casa. Allora, ci sono tantissimi posti in Italia dove, posti meravigliosi, che non sono... trendy, non sono di moda. Quando si dice tra La Spezia e le Cinque Terre, uno pensa subito alle Cinque Terre, quindi pensa a questo, c'ha la casa delle Cinque Terre, figuriamoci. Chissà quanto vale un ricordo. Anche per niente. Io mi sono preso un rudere antico, ma nel senso che era mezzo crollato, di pochi metri quadri, quindi adatto a me, io vivo da solo, l'ho pagato pochissimo perché nel cono dietro La Spezia, quindi non alle Cinque Terre, neanche a Sarzana, neanche in Versilia, ma dietro proprio La Spezia, le case costano ancora poco, quindi ho cercato molto anche questo perché non potevo spendere più di tanto, però anche qui l'applicazione, il volere veramente realizzare il proprio sogno. Questa è insomma un po' la storia. Simone Perotti, però tu non hai una famiglia, no? Nel senso tradizionale, perlomeno, una compagna, dei figli. Ho una compagna che è rimasta a Milano e con cui, insomma... Come vanno le cose? Concordemente questa scelta. Questa è una sfera personale, quindi non la voglio tirare... No, ma l'importante... È condivisa però, nel senso che... No, assolutamente. Io penso che sia possibile condividerla perché un uomo che si realizza è un compagno migliore. Perché un uomo che è felice rincorrendo i suoi sogni è più presente all'interno di una coppia, perché è grato anche a chi lo sostiene. Vale anche per le donne? Ma guarda, penso di sì, mi stanno arrivando messaggi in maniera straordinaria e tantissime storie di donne che hanno deciso di cambiare la loro vita con il coraggio ulteriore che una donna in qualche modo deve avere, ma anche con la concretezza e l'organizzazione che solo le donne hanno. Infatti non mi stupisce affatto che ci riescano percentualmente più degli uomini. Simone, a questo punto, questa che senti è la lampada di Aladino. Visto che tu sei anche un sognatore, questo, a parte oltre alla concretezza, ti ha permesso di arrivare dove sei arrivato e di fare questa scelta di vita. Da sognatore, che cosa sogni? Un desiderio? Intanto ho liberato dello spazio per nuovi sogni, perché uno sogno per il momento lo sto realizzando, lo sto cercando di realizzare, e questa è un'altra bella cosa, no? I sogni vanno realizzati. Un sogno che dura tutta una vita e non si realizza mai è un'utopia, non è un sogno. Quindi un sogno personale molto riferito a quello che io vivo, quello che sono e quello che spero, quello per cui lavoro, è di scrivere tanti romanzi importanti. Un sogno collettivo invece è veramente, spero che mi si prenda sinceramente, non vorrei fare quello che fa della demagogia o della retorica, ma mi piacerebbe proprio tanto che tante persone, attraverso il mio libro o senza il mio libro, assaporassero che cos'è l'ebbrezza della libertà, il poter perdere tempo, che è una cosa che devo dire io non immaginavo neppure fosse così meravigliosa, ma è una delle sensazioni più belle che ho provato in vita mia. Simone Perotti, mentre mi serpeggia un po' questa invidia, io non posso davvero che augurarti buona continuazione. Buona continuazione a voi, in bocca al lupo a tutti quelli che vogliono cambiare. Grazie, ciao Simone.